Mariano, Mariano, vieni un po' qua per favore. Cosa c'è? Cos'è che stai facendo? Ti sto finendo l'arrangiamento di chi ce l'ha con me. Chi ce l'ha con me? Ma tu ce l'hai con me? Ma io no, perché? Che ce l'ha con me? Chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha? Mariano, chi ce l'ha? Chi ce l'ha con te? Quanti sguardi neri, quanti volti scuri, quanti occhi che si accendono su me. Ma chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha con te? Chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha con te? Ora dite cosa ho fatto, non dovete far così. Voi sapete, a questo mondo non si può dir sempre sì. Ma chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha con te? Chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha con te? Se forse nel passato qualche volta io sbagliai, non potete giudicarmi, chi di voi non sbaglia mai. Ma chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Chi ce l'ha con me? Yeah, yeah. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha con te? Chi ce l'ha con me? Chi ce l'ha con me?